Il gastronauta di Davide Paolini. Faremo un giro per l'Italia che abbiamo chiamato Vino Vagando, cercando di andare a scoprire qua e là delle chicche, magari etichette che ancora sono poco conosciute, magari che costano poco. Ecco, cercheremo soprattutto di darvi questi consigli, soprattutto nelle aree dove si sta orientando il turismo e quindi a coloro che magari sono in marcia verso quelle mete. Abbiamo sentito ora un'informazione del nostro radiogiornale che ci diceva che batteremo quest'anno la Francia in quantità di vino. Credo che siano dati poco interessanti questi, perché cioè battere in quantità non significa assolutamente niente, anzi io credo che sia un dato completamente negativo. E poi spero che anche quest'anno non si inizi a parlare di annata del secolo. Ormai sono 40 anni che ogni volta, ogni anno apriamo i giornali e si parla di annata del secolo. Io credo che le annate del secolo sia una sola, ormai ne ho viste 10 o 15. Ecco, spero che quest'anno questo tipo di informazione per piacere non ce la fa, cari produttori o cari organizzazioni dei produttori, insomma l'annata del secolo lasciamole quelle che sono già passate indietro. Ma cominciamo questo viaggio e abbiamo con noi Daniela Scrobogna. Daniela Scrobogna è una sommelier molto molto nota, molto conosciuta e sicuramente grande esperta. Allora volevo cominciare con Daniela un po' che ci desse così qualche chicca per l'estate, qualche vino magari sicuramente che non costi molto e che quindi sia anche una sorpresa per i nostri radioascoltatori. Buongiorno Daniela. Buongiorno a te Davide. Ci dai qualche chicca? Sì, senz'altro. Beh, siamo in estate, quindi sicuramente vini bianchi e rossi, diciamo, di medio corpo e di buon un buon servizio anche con temperature abbastanza fresche. Naturalmente il mio primo consiglio è quello di rispolverare i vini rosati, quindi sicuramente vini rosati che possono andare da un Cerasuolo di Vittoria a un Lagrange Alto Adesino, un Kretzer, per arrivare addirittura a splendidi Bardolino, Chiaretto e Groppello. Devo dire che sono delle sorprese, perché sono vini così poliedrici che riescono a sposarsi con tantissime pietanze. Poi credo che siano anche di un costo contenuto questi vini, esatto, che hai citato. Mi chiedevi proprio un rapporto, non diciamo qualità-prezzo che è inflazionato, ma sicuramente un buon prezzo per vini che magari sullo scaffale possono posizionarsi intorno ai 5, 7 euro, 8 euro. Mi sembra che sicuramente possano andare bene. Per non parlare poi delle bollicine rosate. Quindi oggi credo che non ci sia nessuna azienda veramente che non faccia una bollicina rosata, quindi direi che questo mi sento di consigliarlo vivamente. Poi devo dire che ci sono dei vini rossi e per adesso io ho un particolare amore per il Nerello Pascalese, che ritengo essere un vino per tutte le stagioni, si può servire fresco, si può abbinare tranquillamente al pesce, si può abbinare alla carne, a un primo piatto, ed è un vino che devo dire, tranne alcuni casi che un po' hanno fatto lievitare i prezzi, si può veramente acquistare al di sotto dei 10 euro. Bene. Tutta la produzione siciliana, insomma, ci abitua a questo tipo di prezzo. Grazie Daniela Scrobogna. Io voglio ricordare il numero verde ai nostri radioascoltatori, 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Dateci anche voi, cari radioascoltatori, le vostre indicazioni. Ne ho già ricevuta una, torno ora dalla Francia dove ho bevuto ottimi rossi. Sì, beh, bisogna vedere a che prezzo, caro amico. Ma abbiamo sentito che Daniela ci ha dato dei vini di aree che sono quelle del turismo, alcuni vini veneti, altri altoatesini. Quindi sicuramente, come vedete, chi sta andando in quelle aree può trovare dei vini eccellenti a un prezzo contenuto. Ma non abbiamo ancora parlato sicuramente della Sardegna, dove il turismo sicuramente è di casa. E allora lo facciamo. Anzi, sentiamo prima Giorgio dalla provincia di Roma, un radioascoltatore. Buongiorno Giorgio. Buongiorno a voi, come va? Bene, grazie. Parli mi pure. Mi sto chiamando dalla Salerno Reggio Calabria perché sto andando qualche giorno in ferie. Sì. E vi volevo segnalare che qualche giorno fa a casa di amici a Belletri ho bevuto due vini veramente particolari. Vi spiego meglio. C'è un signore a Belletri che non conosco, ma ho bevuto solo il suo vino. Ha un vigneto che è stato impiantato nel lontano 1905 e da allora queste piante di uva non sono state mai, dico mai, criticate. o rinnovate, quindi sono vecchissime qualità di vini anche conosciuti oramai. Sì, e ci dica che vino ha bevuto però. Allora, praticamente questo vino è un, diciamo come dicono i francesi, è un cuvée di uve, ma sono un vino bianco e un vino rosso, chiamato 1900, dove questo signore praticamente lo produce nei vecchissimi sistemi, di una volta, e affinando nelle botti senza neanche un minimo di lavorazione, quindi sono affinato in un anno e mezzo nelle botti e poi imbottigliato. Se capitate da quelle parti, cercate questo 1900 che è un vino veramente che ne vale la pena. Bene. Grazie Giorgio, ma c'è molto traffico sull'autostrada così che sta facendo lei, che è sempre piena di problemi? Guardi, ma che la gente sta terrorizzata dal bollino nero, ma qui c'è un traffico di normale giorno autunnale. Bene, buon viaggio Giorgio, buon viaggio. Allora torniamo, stavo parlando della Sardegna e abbiamo con noi Gilberto Arru, che è un grande esperto della sua regione. Buongiorno Gilberto. Buongiorno Davide. Allora, ci dai qualche chicca sarda di qualche vino che magari si può acquistare non con cifre enormi, ma che la resa è veramente eccellente? Ma guarda, negli ultimi decenni sicuramente il mercato si è arricchito di vini molto buoni ed è un prezzo molto contenuto. Ti dico subito che la maggior parte delle cantine sociali sono, diciamo, ad un livello molto alto e con dei prezzi molto bassi, forse in alcuni casi troppo basso. Dacci qualche nome. Ecco, dacci qualche nome. Ieri ho assaggiato un Vermentino di Gallura, un Genesi, che non supera i 10 euro. Ma stai parlando di Canaili, immagino, della cantina sociale di Tempio Pausania? Sì, sì, sì, sì, sì, eccezionale. Beh sì, devo dire che ogni ci anno sono dei vini ancora prezzi più bassi, intorno a 5-6 euro, molto molto buoni. Facci qualche nome. Allora, possiamo parlare del Nuragus, che è un vino storico del Campidano di Cagliari, un nome, il Selegas, uno per tutti, e poi ci sono anche dei rossi. Dei rossi interessanti come quelli della Selle Mosca, c'è un Bombarde a Alghero. Ecco, ti interrompo Gilberto, poi riprenderemo perché devo passare la linea alla viabilità per capire cosa succede nelle strade italiane, oggi è molto importante. Rimani con noi perché poi ti richiamo. Il gastronauta. Riprendiamo questo vino vagando, ricordo numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666, poi leggerò parecchi messaggi sms che sono già arrivati. E ricontinuiamo con Gilberto Arru dalla Sardegna, si stava parlando di vini rossi, hai altre etichette da proporci Gilberto? Ah, ci sono tanti Monica. Però c'è un problema con l'audio, Giavedo. Davide, mi ritorna tutto indietro. No, noi sentiamo benissimo. Continua pure. Ecco. Il Monica di Sardegna è un vino che è stato riscoperto. È sicuramente un vino che ci darà molte soddisfazioni, anche per il rapporto qualità-prezzo. Bene, Gilberto, si può dire insomma che chi viene in vacanza in Sardegna può bere bene con poco, è così? Ma sicurissimo, ma in questi ultimi anni possono bere tranquillamente tanto bene ad un prezzo molto molto contenuto. Bene, bene, soprattutto i Vermentini che diciamo da 2 anni sono vini che sono tornati alla ribalta, anzi sono arrivati alla ribalta. Grazie a Gilberto Arru dalla Sardegna. Ora sentiamo un radioascoltatore, Gigi da Asti. Buongiorno Gigi. Buongiorno. Senti, io volevo segnalare 2 vini che ho scoperto quest'estate, cioè circa un mese fa. 2 vini rossi, un Colli dell'Imbara della ditta Giocantino che si chiama, lei non sa chi sono io, è un vino che costa sui 5 euro e mezzo, molto gradevole. Io lo comprerei solo per il nome, guardi. Molto gradevole, frizzante, frizzantino, e si gira sui 6 euro la bottiglia. E poi un Canoneo di Sardegna che si chiama Mammutone, con l'etichetta, con la maschera di Mammoiada. di Mamoiate, esattamente, di Giampiero Puggioni, della cantina di Giampiero Puggioni. Anche questo sugli 11 euro, ma è qualcosa di eccezionale. Grazie Gigi D'Asti. Bene, ora andiamo in Toscana, andiamo da Alessandro Tomberli, andiamo sicuramente nel regno del vino, perché andiamo in un ristorante straordinario, andiamo all'Enoteca Pinchiore di Firenze, io credo forse la migliore cantina d'Europa, se non del mondo, fra la ristorazione. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Alessandro, con una cantina così sicuramente ci sono vini di straordinaria qualità, ma io ti volevo chiedere qualche segnalazione per i nostri radioascoltatori che ora stanno andando tutti in vacanza. Due o tre etichette che tu ritieni di grande qualità, io non parliamo di rapporto qualità-prezzo perché ormai è noioso questa storia e poi è molto difficile, cioè etichette che diciamo di qualità che ha un costo accettabile. Allora, intanto sulle vacanze la gente va un po' ovunque, per cui chi rimane in Toscana, insomma sulla costa, vini bianchi ce ne sono tantissimi, anche di molto buoni. Pensiamo a Vermentino, dai Colli Apuani, di Massa fino alla Maremma, tutta la costa si trovano degli ottimi vini. A Bolgheri posso consigliare Campo alla Sughera, sono dei vini ottimi, una nuova azienda che lavora molto bene, sono dei vini intorno ai 10-11 euro che si possono trovare in enoteca. Altrimenti se siete in montagna, non so, in Trentino Alto Adige, Terlano è una cantina straordinaria. Un vino, un Terlano bianco si può trovare insomma sui 10-11 euro in enoteca, poco più al ristorante, si beve molto bene. Per quelli che vanno all'estero, per quelli che sono in Borgogna, hanno una fortuna particolare, perché adesso si trovano dei vini senza il Grand Cru, quelli più cari, si trovano dei Borgogna bianchi e rossi, soprattutto adesso si bevono dei vini rossi straordinari, un Borgogna Pinot Noir, che è quello base della Borgogna, si trovano 7-8 euro, bevuto adesso in estate a una temperatura fresca sui 14-15 gradi, sono piacevolissimi. E adesso si beve il 2007-2008, che sono due annate non straordinarie per la Borgogna, ma piacevolissime, molto profumate e... Bene. Diciamo che si bevono bene adesso. Grazie per questo giro d'Europa che ci hai fatto fare. Grazie a Alessandro Tomberli dell'Enoteca, del ristorante Enoteca Pinchiori di Firenze. Grazie, grazie tante. Sentiamo Marco dalla provincia di Cagliari, un radioascoltatore. Buongiorno Marco. Buongiorno, volevo segnalare a proposito di vini di prezzo buono, la cantina di Fantati, che lei sicuramente conosce, fa tre bianchi e tre rossi di gradazione e di qualità man mano crescente. I rossi sono Grotta Rossa, Rocca Rubia e il Terre Brune, i bianchi sono il Villa Solais, il Tor Silente e il Villa di Chiesa. Senta Marco, ma lei non è che sia un rappresentante, no? No, io sono bergamasco, fra l'altro. Scherzo, una battuta la mia, va sì. Bene. No, e io quando ho gente a casa incomincio col Villa Solais, che ha 13 gradi e mezzo, e arrivo fino ai 14 gradi e mezzo di Villa di Chiesa d'estate, e viceversa con i rossi d'inverno. D'inverno. E la caratteristica è proprio quella di poter passare da un ottimo vino, perché sia Grotta Rossa che Villa Solai sono a vini speciali, passando da 5 euro a 9 euro e poi a prezzi molto alti. Grazie Marco. Prego. Grazie Marco dalla provincia di Cagliari. Bene, ora andiamo in Romagna, andiamo a Milano Marittima, mi verrebbe da dire Castrocaro, molte volte si può ancora sbagliare, al ristorante La Frasca di Milano Marittima. Buongiorno a Gianfranco Bolognesi. Ciao Davide, ciao. Tu sei sempre stato un grande suggeritore di etichette da un costo contenuto e così, che poi sono diventate degli outsider, che sono diventati veramente dei best seller. Erano quasi sempre vini rossi, sì. Tu sai che la mia campagna, la mia storia era fatta di cibi e di vini importanti, ma soprattutto rossi. Oggi chiaramente è cambiato, perché lavorando al mare l'80% è pesce, quindi vini bianchi molto leggeri, bollicini in abbondanza. Però ho ascoltato la trasmissione, anch'io ho qualche chicca, soprattutto in Valle d'Aosta. Ecco, dacela queste chicche. In Valle d'Aosta ci sono dei Pinot Noir straordinari, dei Fumen Rouge molto buoni, ma anche in Romagna finalmente, dopo i vini del Falegname, dopo i vini palestrati, hanno cominciato a capire che anche ottimi sangiovesi si possono bere col frutto, con l'equilibrio. equilibrio non più a 14-15 gradi, ma anche a 12 gradi. E c'è alcune aziende che stanno facendo questa politica e hanno certamente dei grossi risultati. Ecco, dacci due etichette allora di Sangiovese. Le etichette, il 500 della Zerbina è meraviglioso, è un frutto, un bel Sangiovese che ricorda i frutti di boschi, il lampone, la ciliegia. Sono vini anche da bere freschi, ormai sai, però bisogna anche stare attenti anche qui, Davide, perché io ho ascoltato tutti questi vini, però non vorrei che passando dei vini del falegname ai vini palestrati arrivassimo ai vini cosiddetti anoressici, no? Sono talmente leggeri che poi non sanno di niente. Attenzione, ci vuole un equilibrio in tutte le cose. Ecco, hai detto questo della Zerbina, ci dai un altro nome? Beh, un altro nome ce ne sono diversi, c'è anche il Campo del Sole, sempre di Bertinoro, che fa degli ottimi Sangiovese. Ma fa anche un ottimo Pagadebit, se non erro. Il pagadebito, io non sono un grande stemmitore del pagadebito, però ad esempio fanno anche dei trebbiani molto buoni, magari non in purezza, mettendoci qualche cos'altro, perché tu sai che il trebbiano ha delle versioni uniche, hai capito? Certo. Quindi direi che anche la Romagna si è svegliata, però non dimentichiamoci i nostri cugini emiliani, che anche se c'è tanta rivalità, però ci vogliamo molto bene, ci sono dei Lambrusco meravigliosi. Ecco, qui volevo arrivare anche a questo, io adoro il Lambrusco. Ecco. Ma lo adori, ma soprattutto in estate, al di là del solito accostamento con i salumi, con la piadina, la tigella, ma anche col pesce. Con le ostriche, grasparossa e ostriche. Beh, adesso qui non va bene che con le ostriche, però io con le ostriche ho altri vini da poter mettere, che hanno una puntina di dolce, di amabile, qualche albana come si deve, fatta bene con le ostriche, capito? Poi quella della Brucco è stata un'idea bella, però insomma si può fare con altri piatti. Bene, grazie a Gianfranco Bolognesi, la Frasca di Milano Marittima. E ora andiamo da un radioascoltatore in provincia di Torino, e mi sembra Jean-François, è francese? Prego Jean-François. Sì, sono... Prego. Sono francese, sì, però vivo in Italia. Ecco, ci dica. Allora, io sto viaggiando e ho sentito la vostra... Sono anche proprietario di un ristorante a Barcellonette. Bene. E quello che ho notato è che quando i vostri consiglieri vi parlano di vini a buon prezzo, vi parlano di 8, 10, 12 euro sì. per una bottiglia di vino... che non mi risulta essere un buon prezzo. Ma hanno parlato perché, anche di 5, eh? Parlato perché, anche di 5. Perché ci sono in Piemonte dei Favorita, degli Arneis, dei Pelaverga nella zona di Cuneo o cose del genere, che al produttore costano 1,50 euro e si possono comprare con 2,50 euro, 3 euro. Ma questo è in cantina. Validi, forse in cantina. 10 euro alla bottiglia. Che vuol dire 13 euro al litro, non è un buon prezzo, chiedo scusa, ma... Jean-François, lei sta parlando di vini franco-cantina, qui non è che parliamo no, di... No, parliamo anche di vini al pubblico, 10 euro non è proprio un vino bon prix, naturalmente ci sono anche vini da 20 o da 30 euro, però mi pare che in ogni caso negli esercizi di vendita nella zona... del Piemonte o del Cuneese io trovo dei Favorita, come le dico, degli Arneis, dei Pelaverga, dei Fiolini leggeri che sono eccezionali e che costano 4-5 euro, grazie, 6 euro la bottiglia. Grazie di queste indicazioni, sono preziose, grazie Jean-François, un francese che ci parla di vini a poco prezzo italiani è sicuramente una grande notizia, perché se si va in Francia, abbiamo sentito però che si parlava anche di vini in Francia a 7-8 euro in Borgogna. Ora passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Siamo ancora in macchina per Vino Vagando, un giro dell'Italia per scoprire etichette e vini a un prezzo contenuto. Abbiamo sentito da un radioascoltatore francese, un sommelier francese, che ci diceva che parlare di vino a 8 euro è molto caro. Lui trova vini da 2 euro, 2 euro e mezzo in Piemonte. Benissimo, beato lui. Devo dire che magari in questo momento si trovano. Ho un sms interessante, dice: dobbiamo imparare dai francesi, quando c'è crisi calano i prezzi. Ma abbiamo sms veramente tanti. Chi parla del Lugana, sicuramente siamo d'accordo, un ottimo vino bianco. Chi parla di Lambrusco, e io più volte ho parlato di Lambrusco, per carità, io sono un grande sostenitore del Lambrusco e lo ripeto. Poi chi parla anche di Prosecco, ci sono degli ottimi Prosecchi e dei prezzi contenuti, per carità, anche questo. C'è chi segnala dei vini, come un amico di Arzignano, però non mi dice quanto costano i vini che mi segnala. E c'è anche chi dice che trova dei vini con un ricarico dell'800%. Ecco, io mi sembra che si chiami Luciano da Ravenna, mi piacerebbe che intervenisse, perché questa è una cosa molto interessante. Un ricarico così è veramente spaventoso, vorrei parlarne. Ma sentiamo Alberto dalla provincia di Varese, un altro radioascoltatore. Buongiorno Alberto. Buongiorno, complimenti per la gloriosa trasmissione. Mi dica, prego. Io, tutte le volte che abbiamo parlato di vini lì, non ho mai sentito purtroppo parlare del Lambrusco bianco. Sì. Che io ho avuto modo di bere per un po' di anni, fino a quando un ufficiale dell'aviazione riuscivo a farlo venire su da Modena. Non ne ho più sentito parlare, non ne ho più potuto bere. È una cosa eccezionale. Beh, un Lambrusco vinificato in bianco. Ora sentiamo se c'è qualche produttore, qualche radioascoltatore che può segnalarci questo Lambrusco bianco, ben volentieri. Numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666. Bene, ora andiamo in Alto Adige. Ho molte segnalazioni sui vini del Lago di Caldaro. Siccome abbiamo un grandissimo esperto, abbiamo il sommelier del ristorante La Stua di Michil di Corvara, Merck. Buongiorno Merck. Dicanci dalla Terra Ladina. Ecco, il solito saluto in Terra Ladina, ce lo traduci? Un buongiorno a tutti dalla Terra Ladina. Bene, Merck, allora, non in ladino, ma in italiano, dacci un po' di etichette dell'Alto Adige interessanti, perché molta gente si sta spostando verso i vostri territori, quindi da non spendere molto ma da bere bene. Beh, è difficile, come ho sentito, 2,50 euro, bisogna veramente ricercare tantissimo. Sì, credo che certo. A 2,50 euro sia davvero difficilissimo. Sicuramente l'Alto Adige, il Sud Tirol, è una regione sinonimo di freschezza e di seduzione in questo caso. E il Lago di Caldaro sicuramente, io pensando al Lago di Caldaro e pensando all'estate, mi viene che in mente il Lago di Caldaro, quindi la Schiava Gentile con una piccola aggiunta di Pinot Nero e la grandissima freschezza e grandissimi profumi. Ecco, e quindi dacci qualche etichetta però. Ma c'è un piccolissimo produttore, Baron d'Ursel Giovanelli, che fa un vino che si chiama Kyle, difficilissimo da trovare, ma grandissimi profumi. Ci sono poi altri produttori che fanno anche il Santa Maddalena, vorrei ricordare per esempio il signor Plattner con Waldkries, che fa un Santa Maddalena che secondo me è il più buono che abbiamo in Alto Adige. Bene, grazie Merck. Beh, voi altotesini siete così brevi, sintetici, ma molto bravi. Grazie per queste segnalazioni, ma questo vino che hai detto molto raro, ora chissà quanti radioascoltatori andranno alla ricerca. Sentiamo Roberto dalla provincia di Bari, un altro radioascoltatore. Pronto? Sì, pronto Roberto, prego, parli. Buongiorno, sì, io sono un produttore di Vadavino, sono socio di una cantina della zona nord di Bari. Sì. E spesso sento parlare di vini, però la nostra regione viene un po' messa da parte. Volevo segnalare solo uno, ricollegandomi al primo intervento, quello di cui si parlava delle bollicine rosé. Il nostro Grifo Brut Rosé, che sta incontrando notevole riscontro positivo nei confronti dei consumatori, un prezzo tra i 4 e i 5 euro. Buonissimo, un vino a tutto pasto. Bene, come vede c'è modo di parlare, basta chiamare, si può intervenire, come dico sempre. Ma incredibile ma vero, ho ricevuto un sms che dice: ma l'Abruzzo lo dimenticate sempre. È Roberto dalla provincia di Bari che ha parlato di rosé e io ho in linea un esperto sia di rosé abruzzese. Buongiorno Massimo Di Cintio. Buongiorno a tutti, buongiorno Davide. Massimo, ci dai qualche etichetta, come dicevo, con le caratteristiche? Bere bene ma non spendere eccessivamente. Ora il francese, questo sommelier francese, ha parlato di 2,50 euro e infatti ho ricevuto un sms che mi dice: ma chissà cosa beve il francese. Bene, comunque lasciamo perdere, si troveranno sicuramente vini a quei prezzi lì, però vorrei anche assaggiarli. Massimo, a te. Beh sì, diciamo che per quanto riguarda l'Abruzzo abbiamo tante cantine sociali e, come appunto faceva riferimento anche all'Alto Adige, le cantine sociali riescono a fare molte economie di scala e quindi spesso i vini delle cantine sociali, una volta bistrattati, oggi sono davvero di qualità e spesso di buonissimo prezzo, quindi vini che hanno quantità, qualità e prezzo adeguati ad un consumatore appunto quotidiano, un consumo quotidiano. Io volevo segnalarti invece la uscita di da qualche anno, adesso già in maniera un po' più importante, di un vino anche qui dimenticato, il Montonico, che si produce esclusivamente nella provincia di Teramo, in una piccola enclave della provincia di Teramo, e il Montonico di Santa Pupa di un'azienda La Quercia, ne fa solo 5.000 bottiglie, costa 6 euro e credo che sia a 11 gradi e mezzo un buonissimo vino d'estate. Bene, dimmi. Poi vabbè, ovviamente nella nostra zona pecorino e passerina ce li possiamo scegliere davvero, ce ne sono buoni anche di piccole aziende come Anfra di Pineto o anche buonissima uno di Cantina Tollo, che quest'anno, proprio ieri, ha compiuto 50 anni, un'altra cantina sociale come dicevo. E infine un'altra cosa che forse non costa poco, però secondo me sarà uno dei vini di cui sentiremo parlare, il Moscatello di Castiglione a Casauria. È un vino dolce, passito, appassito sulla pianta, e si produce esclusivamente in questa zona del Pescarese, dell'entroterra pescarese, dove batte il vento. Ed è un vino passito davvero di cui sentiremo parlare, che non è mai stato imbottigliato e per la prima volta c'è dalla vendemmia 2009. L'azienda è Angelucci. Massimo, io volevo dire questo, che per i nostri radioascoltatori, che pecorino e passerina non sono due nomi di fantasia, ma sono due nomi di vitigni autoctoni, perché cioè è bene specificarlo, perché sicuramente non tutti sono super esperti. Comunque Massimo, grazie, e volevo ricordare che Massimo tra l'altro è anche da quest'anno collaboratore della guida dei ristoranti del Sole 24 Ore, appunto per la sua regione. Grazie e a presto. Grazie e a voi. Io volevo anche leggere alcuni sms, e uno che ha perfettamente ragione. Dice: sì, bevete, oggi scatta il nuovo codice della strada, Mirko da Genova. Bene, caro Mirko, sicuramente qui non c'è un incitamento a bere quando si mette al volante. Qui c'è un incitamento non a bere, ma a selezionare il bere e a bere con moderazione. Quindi è un'espressione che io uso spesso, e credo che anche i nostri radioascoltatori che intervengono, i nostri esperti o i nostri invitati, sono d'accordo su questo. Abbiamo con noi un bravissimo sommelier, Federico Graziani, del sommelier di Aimo e Nadia. Penso che anche lui la pensi alla stessa maniera, vero Federico? Ciao Davide, assolutamente sì. Anzi, devo dire che bere bene spesso non vuol dire bere molto, ecco, bere più accurato. Senti, abbiamo parlato di molti vini in giro per l'Italia, Federico, magari il nostro radioascoltatore pugliese si è elementato, non parlate della Puglia, tu hai qualche segnalazione da fare in Puglia? Sinceramente non è una zona che conosco così bene dal punto di vista di viticoltura, proprio perché è un pochino più distante dal mio gusto personale. Ecco, sono allora che hanno bisogno sicuramente di tecnica per essere sviluppati, ma che come regioni del nuovo mondo hanno sicuramente degli ottimi potenziali. Ecco, rimani con noi un secondo, perché prima o poi parleremo dei tuoi vini, cioè dei vini che tu ci segnali. Abbiamo una radioascoltatrice dalla provincia di Foggia, Rosalia. Buongiorno Rosalia. Salve, buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Io volevo segnalare naturalmente a lei, ma anche al sommelier che ci stava ascoltando, due vini in particolare della provincia di Foggia: il Nero di Troia, per il quale si sta facendo una grande battaglia per avere il riconoscimento della denominazione di origine controllata, che ancora tarda ad arrivare, o meglio ci sono un po' di problemi, e l'altro il Tuccanese, un vino che si produce ad Orsara, nell'area dei Monti Dauni, quindi delle colline del subappennino, quindi della Capitanata, e è un vino pregiatissimo, se ne produce molto poco, è difficile trovarlo, ma eccezionale. Non sono sommelier, mi piace il vino, mi piace mangiare e bere bene e credo che questa provincia... Senta Rosalia, lei ha nominato un vitigno che io ritengo sia il vitigno più interessante della sua regione e non sono quelli che diciamo vengono più blasonati, ma io ritengo che il nero di Troia sia l'espressione più interessante della Puglia e già da anni ho scritto di un prodotto, di una bottiglia, di un'etichetta in particolare che mi piace molto, però mi sembra che queste aziende che avevano cominciato molto bene a produrre nero di Troia si stiano un po' perdendo, stiano facendo degli uvaggi. Quello che dice è anche vero, ma in parte, perché comunque ci sono delle cantine che producono bene. Mi dica un'etichetta di un nero di Troia in purezza. In questo momento sinceramente neanche mi viene in mente, ce n'è uno in particolare ma mi sfugge il nome, che è proprio di Troia e produce un nero che è eccezionale, assolutamente, ripeto, in questo momento mi sfugge proprio bene, il nome, bene. Però ce ne sono. Poi c'è questo Tuccanese che è particolarissimo, un antico vitigno della zona dei Monti Dauni, recuperato alcuni anni fa, forse una decina di anni fa, da alcuni giovani del posto e stanno vinificando bene ed è veramente, vale la pena. Grazie Rosalia, torniamo a Federico Graziani. Federico, dacci qualche segnalazione importante di vini, di scoperte. Allora, intanto credo che ci sia una bella novità sull'Oltre Po Pavese. Bene. Un'uva rara di una piccola azienda, si chiama Podere il Santo, e il vino si chiama Rairon. Una raccomandazione, soprattutto in estate, questi vini rossi non troppo strutturati, cerchiamo di servirli un pochino freschi. Ci dai una gradazione? Magari... Ci dai una temperatura 15 gradi, 14? 16 gradi, 15-16 gradi. Bene. Molto spesso nei ristoranti si raggiungono temperature di 25-26 gradi e i vini rossi sono sullo scaffale e vengono serviti a queste temperature. Purtroppo. Da qualche altra etichetta? Sì, una zona che mi sento di promuovere è quella, soprattutto anche perché in vacanza molti italiani si spostano, nella Valle della Loira. Ci sono degli Chenin Blanc e dei Cabernet Franc nella zona di Samur e Anjou, che sono deliziosi, anche questi serviti freschi, per esempio Chateau Pierre Bis o Clos Rougeard. A che prezzo vanno questi vini? Ma, in Italia arrivano sui 10 euro, quindi credo che possono essere trovati in zona a dei prezzi più competitivi, insomma. Quindi anche la Francia sta facendo una politica molto competitiva sui prezzi? Credo proprio di sì, insomma, salvo i Premier Cru che negli Imprimer 2009 arrivano sopra i 1000 euro. Vabbè, sembra... questi, oggi non è tema di questa trasmissione, Federico. Distante dai 2,50 euro. Cioè, un'ultima etichetta, dacci un'altra etichetta ancora. Un rosato, sì. Marchigiano, Sant'Isidoro di Maria Pia Castelli, bello, piacevole, fragrante. Queste notti di frutta e di latte, stupendo. Bene, grazie a Federico Graziani, grazie a Federico Graziani. Prego Paolo dalla provincia di Rovigo di rimanere con noi. Torneremo fra poco, diamo la linea alla regia per la viabilità. Fra poco. Il gastronauta. Continuiamo a vinovagando per l'Italia. Bene, sentiamo Paolo dalla provincia di Rovigo, un radioascoltatore. Buongiorno Paolo. Buongiorno anche a lei, Paolini. Ci dica. Sì, il Lambrusco bianco esiste? È un Lambrusco vinificato bianco, come certo. Il vino nero vinificato bianco. Ma lei... Sì, sono delle cantine da Reggiano, diciamo. Bene, speriamo che il nostro radioascoltatore senta la sua... E lei l'ha bevuto ultimamente? Ma anche i prezzi, che ho sentito dei prezzi anche un po' anomali, perché 10 euro una bottiglia di vino sono tanti, sa. Io ho uno spazio alimentare, però io non vendo nessuna bottiglia di 10 euro, all'infuori dell'Amarone, che è un prodotto diverso, ma quello è un costo, lo si sa, che costa di più. Però io il massimo prezzo è 3,90, 4,90, al massimo un vino... Bene. Anche Pinidoc di marca, veramente. Grazie. C'è chi ne approfitta, glielo dico io, Paolini. Troppo ne approfitto. Io vendo prezzi di mercato, che è giusto poi. Grazie Paolo di questo suo intervento, che sicuramente è interessante e da riflettere. Ora io magari ne posso riflettere anche con Angelo Di Stefano del Duomo di Ragusa. Buongiorno Angelo. Salve Davide, buona giornata. Hai sentito che prezzi? Sì, qua, sì. 2 euro. Cioè, ma in Sicilia, visto che tu sei un grande esperto della tua terra, si possono trovare etichette a questi prezzi? Beh, è un po' difficile, onestamente, è un po' difficile. Il prezzo medio è leggermente più alto, si va oltre il doppio anche. Quindi sui 10 euro? Sì, sostanzialmente sì, per un buon vino, senza dubbio. Angelo, ci dai qualche etichetta interessante appunto a prezzi contenuti? Certo, in questo periodo è molto interessante l'Etna Bianco. Noi proponiamo il Valcerasa di Alice Buonaccorsi sull'Etna. Poi c'è lo stesso vitigno che è il caricante di un'azienda a Megara, che è l'azienda Gulfi, prodotto a Chiaramonte. È anch'esso un vino molto interessante. Poi c'è Renato De Bartoli, il figlio del grande Marco De Bartoli, che ha una nuova azienda che si chiama Terza Via e propone un catapatto lucido veramente buono, interessante. Sono tutti vini naturali, molto genuini, senza lieviti selezionati, senza barrique, per cui molto freschi e piacevoli per questo periodo. E poi un altro giovane produttore che è Nino Barraco di Marsala, che produce un grillo e uno zibibbo di vendemmia tardive con macerazioni un po' lunghe sulle bucce, molto molto particolari. Senti, questi vini più o meno quanto vanno? In enoteca sono vini che si riesce ad acquistare mediamente da 8-10 a 15-18 euro. Senti, ci dai anche un rosso magari per chi ama il rosso anche d'estate? Volentieri, c'è un altro giovane produttore nella nostra realtà che si chiama Paolo Calì, che produce un frappato veramente interessante, molto ben fatto, e ne ha anche una versione rosé da proporre fresca di frigo, che è veramente piacevole, che si abbina poi sia a piatti di pesce che di carne leggeri. Bene, Angelo, io ti ringrazio. Bene, ci hai dato 4-5 vini, perché la Sicilia in questo momento è una delle regioni di punta del turismo, quindi speriamo che servano a molti nostri radioascoltatori che hanno sentito, così per scegliere questi vini che hanno un rapporto così con la qualità abbastanza importante. Grazie Angelo Di Stefano del Duomo di Ragusa. Bene, sentiamo Massimo da Milano, un radioascoltatore. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Mi dica. Io volevo segnalare il dolcetto in generale, ma in particolare due prodotti della cantina sociale di Cossano Belbo, dei produttori, non so se la conosce. Sì. I prodotti sono Piccola Russa, che è un dolcetto d'alba molto buono, ha un prezzo intorno ai 5 euro, adesso non so se poco più di 5 euro, e poi un'altra selezione che si chiama Terrazzamenti, che è invece leggermente inferiore ai 5 euro, e anche questa estremamente buona. Bene, io la ringrazio di questa segnalazione. Vorrei aggiungere che, se si parla di dolcetto, io vorrei citare il grande Chionetti. Grande Chionetti, dove il suo vino, le sue etichette hanno un prezzo veramente rapportato alla qualità che contengono. Ma ora andiamo in un'altra area d'Italia sicuramente importante per il turismo. Andiamo in Campania e andiamo a Sant'Agata dei Due Golfi, da sommelier del ristorante Don Alfonso. Buongiorno Maurizio Cerio. Come va? Bene, tutto grazie. Bene. Maurizio, anche da lei vorrei qualche indicazione per i nostri così radioascoltatori che sono, diciamo, nella zona appunto della costiera, e quindi tutta quella zona, diciamo, che va da Napoli a Salerno in questo momento. Qualche chicca, qualche vino che lei so che scopre sempre e magari propone sempre a un prezzo contenuto. Ultimamente sta andando molto Falanghina dei Campi Flegrei, che è molto buona. Sì. Della ditta La Sibilla. Più o meno il prezzo? Siamo intorno a 10 euro. Quindi bene, Falanghina sicuramente è un vino. C'è anche un cru Cruna del Lago. Sì. E poi c'è quella base che siamo anche al di sotto. Di 10 euro. Fresca, pulita, interessante. Altro, perché ci sono tanti vini ormai in campagna che sono, sì, diciamo, qualcosa di più mineralità, non so se conosce, ma senz'altro Ciro Picariello. No, non lo conosco, però ce ne parli. Allora, Ciro Picariello, siamo a Sumonte come zona, Avellino, siamo zona collinare, dove parte con un bel frutto, ma stando un pochino in bicchiere con temperature un pochino più alte tira fuori una bella mineralità, la nocciola, che è tipica del fiano di Avellino, dando poi note dei nostri sottosuoli che sono vulcanici, quindi un pochino più minerale, affumicato, senza legno, pulito come vino, ed è interessante anche. Un rosso? Parlare sempre di fiano. Un rosso? Ma un rosso anche molto buono, per ritornare sempre alla Sibilla, c'è questo Marsigliano da Uve Marsigliese, sempre Campi Flegrei su Piede Franco, interessantissimo, anche lì siamo intorno ai 12-13 euro a bottiglia, fa un pochino di legno, ma è interessante, bello morbido, senza nessuna spigolatura, anche da servire a temperature un pochino più basse, anche su pesce tranquillamente, anche a pranzo, interessante anche lì. Ecco, mi dia anche un piede palumbo, che io sono un appassionato di questo vitigno. Sì, c'è il piedi rosso. Sì. Ma ci sono dei piedi rossi interessanti, anche per parlare quello di Ischia, di Lambra, che sono belli, puliti. Vanno bene anche col pesce, anche se sono rossi. Tranquillamente, non hanno grandi estrazioni, anche nel colore, quindi a temperature sempre un pochino più basse, sono piacevolissimi da bere. Bene, grazie a Maurizio Cerio, sommelier del ristorante Don Alfonso di Sant'Agata dei Due Golfi. Bene, sentiamo Michele da Ferrara, un radioascoltatore. Buongiorno Michele. Buongiorno a lei Paolini e complimenti. Volevo fare una segnalazione e fare anche una domanda, mi interessa molto la domanda. Ho avuto modo di sentire a un ristorante un vino siciliano, dovrebbe essere, non me ne intendo tanto. Si chiama Cometa Planeta, sì. Planeta Cometa o meglio. Sì. E poi ricercandolo in alcune cantine mi è stato detto appunto che la distribuzione era particolare, avveniva solamente attraverso i ristoratori, eccetera. Io ne volevo chiedere conferma e soprattutto. No, guardi, Planeta è un grossissimo marchio siciliano, si trova anche in enoteca tranquillamente, anzi. No, sì, io ho trovato l'altro, perché sono due nomi. Il Cometa è quello, sì, che cercavo e non l'ho trovato, mentre l'altro è commercializzato e se ne trova a quanto pare tantissimo. Comunque, guardi, io probabilmente mi sono rivolto alle, sì, persone sbagliate. Sì, io non metto la mano sul fuoco, però credo che, appunto, essendo un'azienda molto conosciuta, credo che nelle enoteche importanti si possa trovare. Bene, la ringrazio. Donato della provincia di Bari, brevissimo perché ho pochi secondi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Visto che parlate poco del primitivo. Ce ne parli lei? Il primitivo è il vitigno autoctono pugliese. Sì, no, ma mi dica magari un'azienda con un vino, con un primitivo a un prezzo accettabile. Io conosco una piccola azienda artigianale, sì, che produce anche del vino per me, sì, Cantine di Pace, non vorrei fare pubblicità. Che quanto costa? Solitamente si va all'ingrosso da 2,50 fino ai 6 euro. Bene, grazie a Donato, l'ultima segnalazione della Puglia. Io volevo fare un po' un sunto di tantissimi sms, che chi cita Tazzelenghe, chi cita ancora il Prosecco, chi cita ancora il Lambrusco, sicuramente ne abbiamo parlato, ma soprattutto tutti si lamentano dei ricarichi ai ristoranti, ricarichi nei negozi. E signori, non so cosa farci, io posso semplicemente segnalare le proteste di moltissimi radioascoltatori che parlano di 800% di ricarichi. Qui mi sembra che siamo un po' fuori. Comunque tutto è possibile. Non mi resta che augurarvi buon viaggio, chi è in viaggio, darvi appuntamento domani per il riposo del guerriero e augurarvi una buona estate chi magari oggi arriva in vacanza. E alla prossima settimana, quindi continueremo anche in agosto come sempre, tutti i sabati, stessa ora, stessa radio e stesso Davide Paolini. A presto.